Guzzanti, lei in un'intervista al Fatto l'altro giorno ha detto: altro che vittima, Mara è una zarina. Che vuol dire? Io intanto vorrei dire che non sono un carfagnologo, quindi Cioè, non no, lo passo la so. vita No, scrutando. immagino che no, non segue passo dopo No, passo le imprese della lo Carfagna. confesso, lo Anch'io lo confesso. confesso, devo dire la Sì, verità, anch'io. comunque, lei ha un temperamento visibilissimo perché poi è una donna molto intelligente, molto volitiva. Credo che lei sia capitata in politica per puro caso, lei stava seguendo tutte altre strade che erano Perché è quelle. capitato in politica, secondo lei? Da Ma perché Berlusconi se ne è invaghito, credo che questa non che sia punto di completa. vista? Se ne è invaghito, ma l'ha trovata una donna affascinante, charmante, bellissima, attraente, me lo ha detto anche a me davanti alla stessa Carfagna, ma lo diceva a tutti, non sto svelando un Sì, mistero, né sì. sto insinuando cose di altro genere che non so, non mi interessano, e quindi non sto dicendo che c'è Però stata. molte persone insinuarono, Molti lo insinuano, ma cosa compresa c'è? sua figlia, insomma. Beh, questo Lei non risponde di sua sappiamo figlia, tutti perché? che giravano delle pretese, trascrizioni di Anche lei lo pretese disse, anche telefonate. lei lo disse. Beh, io dissi che Che giravano giravano queste e cose, che sì. ero pronto ad essere ascoltato da un magistrato se mi avesse voluto chiedere chi me l'aveva detto e chi Ma diceva in di queste avergliela detto. trascrizioni c'era anche la Carfagna? In questa. Beh, dunque, io non le ho lette, io ho udito coloro che dicono di averle lette. Allora capisce No, che certo. siamo In in un una campo del tritacarne che non vale la pena. tritacarne, Comunque. beh, una bella, mi piace tritacarne, Sì. tritacarne. Tritacarne è una parola straordinaria che potrebbe essere, vabbè, non lo dico. E dunque, non ho capito, però derelato c'era anche la Carfagna in queste voci che lei fece girare un tempo che Relato c'erano varie ministre, tra cui tra anche cui la la Carfagna, si Carfagna. può Sì. dire. Si può dire. Naturalmente la cosa è stata non dimostrabile, Certo, certo, ma certo. questa è roba. Cioè, secondo Comunque lei è non arrivata sono. in politica perché Berlusconi se n'è invaghito Ma da io un le punto ho di vista detto, di credo. donna, come donna, se n'è invaghito come donna, non certo Certamente, come tant'è vero che cervello, disse che diciamo, no? l'avrebbe voluta sposare, Veronica Lario si infuriò, lui dovette andare a Marrakesh a suonare il mandolino per recuperare allora Veronica Lario, perché aveva detto che voleva, se lui fosse stato un uomo libero avrebbe voluto sposarla la Carfagna, lo Sì, disse in sì. pubblico, insomma, no?